Bon, allora passiamo alla dottoressa, grazie. Adesso Balestreri, Paola Balestreri, che è, come si dice, cioè dimostra anche il fatto che proprio è composito il nostro gruppo, è, come si dice? Dottoranda. Dottoranda, ecco, no? A Napoli, presso il dottorato che è gestore del diritto, no? Di Napoli e Napoli-Firenze. Tema, note sulla codificazione penale fra 7 e 800, il titolo 20, parte seconda dell'Allgemeine Landesrecht. Prego. Sì, io svolgerò alcune considerazioni sulla sezione penale dell'Allgemeine Landesrecht prussiano del 1794. Mi limiterò ad un esame tecnico e soffermandomi su quegli aspetti che mi sono sembrati più significativi, aspetti formali e di contenuto, per comprendere le peculiarità di questo codice. In qualche punto potrà essere utile un confronto con i codici del tempo, e cioè con le altre opere legislative in materia penale prodotte dall'assolutismo illuminato. Mi riferisco in particolare alla riforma criminale di Pietro Leopoldo in Toscana, la cosiddetta Leopoldina del 1786, e il codice dei delitti e delle pene di Giuseppe II in Austria del 1787. Si tratta di codificazioni, queste di fine Settecento, che precedono di alcuni decenni il Code Penal francese del 10, che avrebbe inaugurato una nuova epoca della legislazione penale, imponendosi come modello codicistico per eccellenza nel corso dell'Ottocento. Ad esse quindi è necessario accostarsi forse con una certa cautela, senza assolutizzare i nostri schemi di valutazione che sono legati ad un modello di codice, quello appunto dell'Ottocento francese, un modello storico che tra l'altro presenta oggi segni di crisi e anche di un esaurimento delle sue funzioni per certi aspetti. Entro subito nel merito di un esame sulla struttura della parte penalistica, la cui elaborazione si deve principalmente a Klein all'interno della triade formata da appunto Klein, Svarez e Karmer, la triade dei compilatori. Va detto in primo luogo che, a differenza di ciò che accade in Toscana e in Austria, il diritto penale in Prussia non viene fissato in un corpo breve né autonomo di norme, ma è posto invece a chiusura di quell'imponente opera legislativa che fu il Landrecht, nell'ultimo titolo relativo appunto ai delitti e alle pene, un titolo che riecheggiava l'opera di Beccaria, e contenente ben 1577 paragrafi divisi in 17 capitoli. La posizione di questa materia alla fine del codice è abbastanza significativa. L'ampio panorama di prescrizioni giuridiche che regolavano i diversi aspetti della vita sociale era seguito nella parte conclusiva dalle norme penalistiche, che rappresentavano appunto la conferma e un ulteriore rafforzamento ottenuto tramite la sanzione penale dell'ordine giuridico fissato nei titoli precedenti. In questo il Landrecht non si distaccava dallo schema generale seguito nei trattati del diritto comune, nelle opere dei giusrazionalisti tedeschi e nelle consolidazioni 6-700, cioè in quelle raccolte di leggi considerate come gli immediati precedenti storici dei codici. Uno degli elementi di novità del codice prussiano è invece il contenuto del titolo 20. Esso regolava infatti il solo diritto materiale, sostanziale, mentre non considerava il diritto formale, cioè la procedura. Anche la legislazione di Giuseppe II in Austria aveva codificato separatamente il diritto sostanziale e quello processuale, venendo così ad interrompere una lunga tradizione di opere legislative che dalla Costituzione criminale carolina del 1532 in poi, fino alla riforma di Leopoldo in Toscana, avevano concepito in modo unitario questi due ambiti del diritto penale e li avevano regolati insieme seguendo l'ordine del processo, secondo uno schema processuale. Più che il caso austriaco, comunque, dove la separazione delle materie fu più che altro determinata da fattori contingenti, ci interessa il caso prussiano perché qui, alla base della esclusione della disciplina del processo dall'Andrecht, c'è una nuova impostazione teorica del rapporto reciproco tra diritto materiale e diritto processuale, un'impostazione che va ricollegata al concetto stesso di legge che sta a fondamento dell'Allgemeines Landrecht. Sappiamo che tradizionalmente la legge penale era stata concepita come una norma di giudizio rivolta principalmente al giudice e le legislazioni penali fino alla Leopoldina erano state ordinanze per i tribunali. In primo luogo, quindi, il sovrano dava disposizioni circa la procedura, la forma in cui l'attività dei suoi organi doveva esplicarsi. E poi veniva la parte sostanziale, relativa ai delitti e alle pene, che era posta in secondo piano, anche se costituiva certamente un momento indefettibile della valutazione del giudice e un presupposto della sua decisione. Si trattava in sostanza di un modello dinamico pragmatico del sistema penale, perché il sistema stesso appariva nel momento in cui il giudice era chiamato ad attivarsi per accertare un fatto ed una eventuale responsabilità. La concezione della legge dell'Allgemeines Landrecht è invece fondamentalmente imperativistica. L'essenza della legge, come è scritto anche nel paragrafo primo dell'Einleitung, era quella di fissare i diritti e i doveri dei singoli cittadini, tra loro e nei confronti dello Stato. E la legge penale si caratterizzava perciò come un comando o un divieto rivolto al suddito. Le norme processuali, non avendo questo carattere di ordini nei confronti dei cittadini, dovevano essere escluse dall'Andrest e considerate a parte nell'ambito che era sempre stato il loro degli jura majestatis, del diritto di sovranità attinente alla suprema giurisdizione. In questo modo però la sentenza del giudice penale non era più soltanto l'esecuzione della volontà sovrana, ma il giudizio su un rapporto giuridico esistente e preventivamente definito dalle norme sostanziali tra lo Stato e il cittadino o i cittadini tra loro. Si affermava cioè l'idea ancora oggi dominante della strumentalità del processo rispetto alle norme del diritto penale materiale, perché l'attivazione del processo penale stesso era prospettata soltanto come un posterius eventuale rispetto ad un prius, la norma sostanziale, che una volta osservata dai consociati era capace di esaurire l'intera efficacia giuridica del sistema. Da un modello dinamico pragmatico si passava quindi ad un modello statico e razionalistico del sistema penale, per cui nella osservanza dei doveri fissati dal codice si esprimeva la fisiologia del sistema, mentre l'inosservanza costituiva soltanto un'ipotesi eventuale quanto patologica, sulla quale si innestava una dimensione giuridica di secondo grado, il processo, in cui la norma sostanziale riceveva un'attuazione simbolica mediante l'applicazione della pena. Vediamo ora più a fondo gli aspetti sistematici del titolo XX e l'ideologia che si può cogliere dalle norme in esso contenute. Il titolo si apre con 6 paragrafi introduttivi, cui segue un primo capitolo, Von Verbrechen und Strafen überhaupt, che rappresenta quello che oggi chiameremmo la parte speciale, la parte generale del codice, contenente cioè regole valide per tutti i tipi di reato. In essa era enunciato il principio di legalità, erano contenute le disposizioni generali sui criteri dell'imputazione, sul dolo e la colpa, le norme sul tentativo, sulla partecipazione e sull'applicazione delle pene. I rimanenti capitoli del titolo XX, dal secondo al XVII ed ultimo, corrispondono invece alla parte speciale dei codici moderni, costituiscono cioè un quadro sistematico di figure criminose organizzate secondo una tavola di valori tutelati disposti in una progressione gerarchica discendente. In particolare sono individuabili nella parte speciale 2 grandi partizioni di norme, quelle attinenti ai reati contro lo Stato e quelle relative ai reati privati. Prima di esaminare questi capitoli relativi alle varie figure di reato, è forse opportuno soffermarsi su alcuni aspetti dell'ideologia penale dell'Andrecht che già si manifesta nei 6 paragrafi introduttivi e nel sistema delle pene che può essere ricostruito integrando il quadro abbastanza incompleto che si coglie nella parte generale con delle considerazioni che si possono dedurre dalle norme della parte speciale. Va notato in primo luogo come il Landrecht incarni assai più degli altri codici penali del tempo la tendenza dell'assolutismo illuminato ad accentuare il problema della prevenzione dei reati e di conseguenza tenda ad una regolamentazione della vita sociale in tutti i suoi aspetti, in modo da sopprimere le situazioni che generavano e rendevano possibili i reati. Le conseguenze sul piano della codificazione criminale si palesavano nel caratteristico connubio tra un'ottica di polizia e l'ottica del diritto penale, e cioè nel fatto che alla ordinaria amministrazione della giustizia si veniva ad aggiungere un'attività di polizia preventiva e repressiva con funzioni di controllo, di vigilanza e di intervento. La lotta al crimine, cioè, non era improntata solo all'uso di pene, ma anche a quello di mezzi preventivi che dovevano distogliere il suddito da certi comportamenti ed educarlo alla virtù e alla morale. Dunque, accanto a norme penali vere e proprie, cioè provviste di sanzione, sono presenti leggi imperfette, secondo i nostri criteri odierni, già nei caratteristici 6 paragrafi introduttivi, che contengono norme con istruzioni dirette alle autorità di vario tipo, ai genitori e agli insegnanti, affinché prevengano vizi e delitti tra i loro subalterni e tra le persone affidate alla loro sorveglianza. Di questi 6 paragrafi presenta un particolare interesse il 5, che racchiude quella concezione dualistica o del doppio binario, ossia relativa ad un sistema fondato sull'uso combinato di pene e di misure di sicurezza, di cui Klein è considerato storicamente il fondatore. Il paragrafo 5 dice più o meno così: i colpevoli di furto o di altri reati che costituiscono un pericolo per la collettività devono essere trattenuti in carcere anche dopo aver scontato la pena ordinaria, fino a che non diano prova di poter provvedere in modo onesto al proprio sostentamento. La misura di sicurezza posta accanto alla pena ordinaria era la carcerazione per un periodo di tempo la cui durata rimaneva indeterminata, in quanto non faceva riferimento al fatto oggettivo del comportamento antigiuridico, cioè al reato, ma alla pericolosità soggettiva dell'autore. Durava quindi finché durava il pericolo di una eventuale recidiva. Questa idea delle misure di sicurezza rientrava in una concezione della pena tipica di quei giuristi tedeschi della fine del Settecento che teorizzarono un sistema penale conforme agli scopi e alle necessità dello Stato assoluto e di polizia. La pena vista in un'ottica di prevenzione speciale, considerata cioè come un'azione sul singolo delinquente e tendente da un lato a difendere la società da nuovi attacchi, quindi a neutralizzare il reo, a renderlo innocuo, e dall'altro al suo eventuale miglioramento, alla risocializzazione. È noto però che questo scopo fu sempre posto in secondo piano rispetto al fine primario della difesa della società, e questo sia nel pensiero di questi giuristi, che oltre a Klein erano Grolman, Stübel, Kleinschrod, ma ancora di più nella prassi degli anni successivi, che dimostrava il carattere utopistico dell'idea rieducativa, anche a causa dello stato di crisi e di sovraffollamento delle carceri, e quindi della svolta in senso repressivo che caratterizza i sistemi punitivi della prima metà dell'Ottocento e che portò a concepire il carcere in una ottica puramente segregativa a scopi di sicurezza. Non mi soffermo sulle polemiche di fine Settecento in relazione al problema dello scopo della pena, né sulle critiche di Feuerbach ai sostenitori di questa teoria della prevenzione speciale. Invece dirò qualcosa sul sistema delle pene e sui criteri che regolavano la loro applicazione nell'Andrecht. Circa la determinazione del tipo e del grado di pena, il giudice doveva tener conto del ceto, della cultura, del patrimonio e delle capacità di lavoro fisico del reo. Affermava Svarez in una delle sue conferenze: tale distinzione non è affatto parzialità, ma si fonda sulla natura della cosa e della stessa pena. Dunque il Landrecht non realizzava quella unità del soggetto di diritto, quella uguaglianza formale di fronte alla legge, che è uno dei caratteri dei codici moderni e che era presente nel codice di Giuseppe II, e manteneva invece una stratificazione per stände, una differenziazione dei destinatari delle norme basata sull'appartenenza ai ceti. In particolare è interessante notare che questo codice accoglieva l'idea di Beccaria della necessità di sostituire la pena pecuniaria con la pena detentiva per i ceti inferiori. I poveri erano quindi esentati dal pagamento delle pene pecuniarie che venivano automaticamente trasformate in pene detentive o più spesso in pene corporali. All'opposto, la detenzione dei criminali di più alto rango sociale, costituiva una pena rara perché dipendeva dal non pagamento di una pena pecuniaria che costituiva la pena tradizionale per le classi elevate. Certamente se in questo codice non era accolto il principio moderno dell'uguaglianza, tuttavia vediamo che è presente una logica, cioè un tentativo realistico di razionalizzazione del sistema penale, quindi di adeguare le pene alle condizioni del reo. Un altro principio moderno che non viene accolto nel codice è quello della personalità della pena, che invece era accolto sia in Toscana che in Austria. Nel reato di alto tradimento di Hochverrat, ad esempio, la pena era applicabile anche ai familiari del reo. Circa le pene previste in generale, si può affermare che è presente nell'Andrecht un parziale accoglimento dei principi illuministici nel senso della mitigazione delle pene. Viene per esempio dato un maggior spazio alle pene detentive e pecuniarie, che per la loro capacità di essere divisibili e graduabili per unità di tempo e di denaro, rispondevano alle esigenze di proporzionalità, di adeguamento della pena alla gravità del reato che erano state evidenziate dagli illuministi. E tuttavia va detto che non mancano le tracce di una tradizione decisamente crudele nelle pene che sono previste, una tradizione che era quella poi elaborata da generazioni di commentatori della Carolina. Erano mantenute ad esempio forme di pena di morte qualificata, era previsto in larga misura l'uso della pena corporale, sia come pena autonoma, sia come pena rafforzativa di altre pene. Ad esempio, era molto in uso il cosiddetto Willkommen und Abschied, una pena corporale, in genere la frusta, con la quale il reo veniva salutato in un modo forse non molto gradito all'inizio e alla fine del suo periodo di detenzione. Altri tipi di pene che costituivano un retaggio del diritto comune era la confisca dei beni, la pena infamante e infine le pene simboliche che si applicavano quando il reo moriva prima dell'esecuzione della condanna o quando sfuggiva alla giustizia. Ad esempio nel reato di Hochverrat era prevista l'esecuzione della condanna sul ritratto del morto o del latitante, una pena in effigie. E veniamo ora alla parte speciale del codice attinente alle varie figure di reato. Mi limiterò ad accennare soltanto a quei capitoli relativi ai reati per i quali la disciplina dell'Andrecht presenta elementi peculiari e di novità. Il carattere casistico e dettagliato di queste norme era dovuto alla volontà del legislatore di ridurre al minimo le possibilità interpretative del giudice o della dottrina. Al primo posto, nella categoria dei reati contro lo Stato, venivano i reati di alto tradimento. Abbiamo una novità, cioè le distinzioni introdotte fra Hochverrat e Landesverrat, cioè reati contro la sicurezza interna e reati contro la sicurezza esterna. Comunque, nonostante questo progresso dal punto di vista della terminologia, rimangono, per quanto riguarda Hochverrat, le tracce della teoria tradizionale del diritto comune che attribuiva un carattere straordinario ai reati di questo tipo, ai reati di crimine lese, legittimando la deroga ai principi generali e il rafforzamento delle pene previste. Abbiamo visto tipi di pena di morte qualificata, la pena non personale ma che colpiva anche i figli e le pene simboliche. In questa materia, invece, la Leopoldina aveva realizzato un passo in avanti abbastanza significativo. Aveva infatti eliminato del tutto la rubrica della lesa maestà e aveva trattato di conseguenza come reati ordinari anche gli attentati contro lo Stato e di conseguenza con una certa mitezza relativa, anche perché poi la Leopoldina fu il primo codice ad abolire la pena di morte e invece prevedeva come pena massima i lavori forzati a vita. Un elemento caratteristico è presente nel capitolo sesto relativo ai reati contro la religione. Qui è da notare un'impostazione laica che fa sì che appunto che essi siano ricompresi all'interno del raggruppamento dei reati contro lo Stato e quindi puniti in quanto costituivano una minaccia alla pace dello Stato e non un'offesa alla sacralità dei dogmi e delle istituzioni religiose. Più che reati contro la religione, il codice puniva i reati contro i diritti delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato. Era punita la ciarlataneria, la fondazione di sette, mentre non comparivano i reati di stregoneria e magia, sul cui carattere di crimini già Tomasius si era espresso in senso negativo. Da notare qui le differenze della disciplina della Leopoldina, che invece non depenalizzava i delitti canonici come l'eresia e il sacrilegio e prevedeva la massima pena per i reati contro la nostra santa cattolica religione, come si esprimeva Leopoldo nel codice. Di particolare interesse è il capitolo ottavo relativo ai reati dei funzionari dello Stato. Si tratta dell'unico gruppo di reati che in questa parte speciale del titolo ventesimo non viene determinato in funzione del bene violato dal comportamento antigiuridico, bensì in base al soggetto autore dell'azione. Ciò che accomuna questi reati non è il fatto infatti di essere diretti contro un medesimo oggetto, ma il fatto di essere commessi tutti da funzionari dello Stato, da appartenenti al ceto della burocrazia, sia nell'esercizio delle loro funzioni, sia indipendentemente da esse. Si va perciò dal reato di corruzione ai casi di diserzione di militari, in cui si rinviava in genere alle leggi di guerra, fino al semplice fatto di condurre una vita privata, disordinata o dissipata. Ciò che viene penalizzato, infatti, non è soltanto la violazione degli obblighi che derivavano al funzionario dal suo rapporto di servizio, ma anche il venir meno a quei particolari doveri di fedeltà, di dedizione e di obbedienza verso lo Stato. Si è parlato, in relazione alle norme di questo capitolo, di un diritto penale cetuale, di uno Standesstrafrecht, proprio perché è al Beamtenstand, al ceto della burocrazia, che il legislatore si rivolge in quanto colonna portante dell'organizzazione dello Stato prussiano e dunque necessitante di una particolare sorveglianza. Al primo posto del gruppo dei reati privati troviamo le offese all'onore, che precedono persino i delitti contro la vita dei singoli e dunque rappresentavano le offese al bene primario degli individui, l'onore, la stima pubblica, in un mondo ancora fortemente caratterizzato in senso feudale. Questo capitolo prevede norme molto intricate e casistiche a seconda del ceto, del rango di chi recava l'offesa e di chi la subiva. Poi viene il capitolo sulle lesioni corporali, che contiene, oltre alle norme sull'omicidio, quelle sull'infanticidio, tra cui i famosi mezzi di prevenzione. Si tratta di norme che rientravano in generale in quella opera di promozione del tasso di natalità, in quella politica popolazionista che caratterizzò l'assolutismo di Federico II e che fu determinata soprattutto dalle esigenze della guerra e quindi dal bisogno di reclutare nuove leve. Gli ultimi capitoli del titolo ventesimo riguardano i reati patrimoniali. Concludo queste note soffermandomi brevemente sul reato di furto, per il quale va notata una relativa mitezza delle disposizioni del codice. Per il furto semplice le pene andavano da un minimo di 8 giorni di carcere ad un massimo di lavori forzati fino a 2 anni. Tanto che uno degli argomenti di critica dei giuristi dell'Ottocento all'Andrecht fu proprio che esso non dava alla proprietà privata una sufficiente tutela. In realtà queste disposizioni erano state presto modificate, già nel 99 erano state reintrodotte anche per il furto lieve, la frusta, il bastone e altre pene corporali, e questo anche a causa del forte aumento della criminalità che caratterizzò quegli anni, dovuto ad un generale deteriorarsi delle condizioni economiche delle classi povere. Nonostante questi inasprimenti, si tratta comunque di pene ancora inferiori a quelle previste dal Code Penal francese del 1810, che fu introdotto nei territori del Reno e vi fu mantenuto anche nell'età della Restaurazione. Fino al 1851, anno in cui viene promulgato il nuovo codice penale prussiano, si assiste in Prussia alla curiosa convivenza di un codice dell'assolutismo come il Landrecht con quello che viene considerato il prototipo di un codice penale moderno. Effettivamente il Code Penal si presenta come un corpo breve e sistematico di norme sulla repressione, molto avanzato dal punto di vista della tecnica giuridica e dell'impianto dogmatico, che realizzava l'unità del soggetto di diritto, quindi l'uguaglianza formale di fronte alla legge, e una reale separazione tra concezioni etiche e concezioni giuridiche. Tuttavia, questo codice si allontana parecchio dal sistema punitivo della legislazione rivoluzionaria, non accogliendo affatto le istanze umanitarie dell'illuminismo e prevedendo pene corporali piuttosto crudeli, oltre alla confisca, alla perdita dei diritti civili. Puniva ad esempio in modo molto severo gli attentati contro lo Stato. Ma soprattutto un confronto tra i due codici in relazione alla disciplina del furto mostra come il nuovo assetto sociale che si è consolidato dopo la rivoluzione avesse determinato una struttura penalistica rigidamente finalizzata alla tutela di quel diritto di proprietà che nella società borghese dell'Ottocento si era posto al centro degli interessi politici del legislatore. Al nuovo principio di assolutezza che fonda il diritto di proprietà viene infatti a corrispondere una severità assoluta nella punizione degli attentati contro di esso. Il codice penale puniva il furto duramente, in certi casi di furto qualificato addirittura con la morte. Sappiamo invece che negli illuministi era presente, per così dire, una consapevolezza del carattere di classe del diritto penale, una consapevolezza che non si cercava di rimuovere. Beccaria, per esempio, ammette l'esistenza di un nesso ben preciso tra furto e ordine sociale dominante basato sulla proprietà privata. E da ciò derivava la concezione, che è presente anche in Federico II, di una responsabilità sociale per certi reati e l'idea che era possibile una considerazione benevola, mitigata del furto in certe circostanze. Tutte idee che sono presenti nel codice, ad esempio questa ottica di reinserimento all'interno della società di quei devianti che divenivano tali sotto la pressione della povertà, quindi per un problema di sopravvivenza. Il diritto penale ottocentesco invece, non più legato al presupposto illuministico di una riforma sociale, all'idea del welfare, del benessere di tutti i sudditi, perde di vista la motivazione sociale del delitto e diventa garante di una società consolidata, ma ancora duramente sperequata, nonostante il modello egualitario per il quale il sistema penale stesso veniva idealmente concepito. Benissimo. Ci sono delle precisazioni da chiedere su questo? Sì. Allora, Gustavo Corni. Avrei una domanda. C'è un paio di domande e due riferimenti che forse potrebbero essere utili anche alla discussione. Ho trovato molto interessante soprattutto l'ultima parte del discorso sulla proprietà e sul confronto tra il codice settecentesco e il codice ottocentesco, anche perché mi confermano della tesi che anch'io ho espresso in merito all'Allgemeines Landrecht. Le domande sono le seguenti. Anche la parte penalistica dell'Allgemeines Landrecht, immagino come tutte le altre parti, era subordinata, aveva carattere complementare e subordinato ai codici provinciali, oppure no, era... Aveva carattere generale. A differenza quindi della prima parte. Ecco, quindi questo è abbastanza importante, anche se naturalmente sarebbe da vedere in che misura la casistica dell'Allgemeines Landrecht si scontra o è armonizzabile all'interno delle prassi di giustizia amministrativa, certo, che è anche molto importante nel settore penale, che nel Settecento è dominante, almeno mi sembra che Hinze e altri insomma, lo abbiano dimostrato molto chiaramente. La seconda domanda è relativa al problema dei militari. Io non ho ben presente, perché la seconda parte della Allgemeines Landrecht non l'ho studiata molto a fondo, ma ci sono riferimenti precisi alla legislazione militare? Sì, Kriegsätze, rimando esatto, in genere. Perché c'è, questo è un campo di conflitto costante, mi sembra, nel Settecento, per esempio, tutto il problema della gestione dei canton power, sì, no? Dei esatto. contadini cantonali, se erano gestibili sotto le leggi normali oppure se quando erano in licenza erano gestibili sotto le leggi militari, e credo che si imponga alla fine. Un'estensione delle leggi militari alla vita dei cantonisti fin dal momento stesso in cui vengono iscritti nelle cosiddette roller, cioè nelle liste, insomma, che succede quando sono bambini, e quindi si estende, mi sembra, no? Il diritto militare praticamente a una grossa fetta della popolazione rurale, a prescindere dal fatto che sia già militare, ma solo per il fatto di essere iscritta nelle liste di futuro arruolamento. Gli suggerimenti sono due. Uno, relativamente alla religione, non ti pare che questa distinzione tra Leopoldina e l'Allgemeines Landrecht nella questione dei diritti di lesa religione o meno sia da ricondurre alla tradizione protestante, certo, rispetto chiaro, a quella chiaro. Cattolica, per cui sì, secondo sì. la legge protestante la Chiesa, cioè secondo i protestanti la Chiesa è in fondo parte integrante dello certo. Stato. L'altra invece, l'ultimo, è una questione relativa alla rieducazione. Nel Settecento, vi parlo sempre del Settecento, viene dato molto peso al lavoro nei cosiddetti Arbeitshäuser o vari, per i devianti in generale, per i marginali e poi anche per i puniti, quindi i marginali, prostitute, illegittimi, così, mendicanti, ma anche però i puniti vengono fatti lavorare in questi Arbeitshäuser, oppure vengono la loro pena finalizzata alla produzione, soprattutto negli impianti, negli stabilimenti statali, fabbriche di armi o cose del genere. Nell'Allgemeines Landrecht c'è un riferimento preciso a questo, credo, importante aspetto del lavoro coatto, inteso in senso però mercantilistico almeno. Sì, c'è no? un paragrafo che non è il titolo ventesimo relativo alle Zuchthaus e Arbeitshäuser. Sì, senza dubbio ci sono riferimenti anche a questi aspetti qua, che poi sono stati posti in luce da Rusch e Kirchheimer sì. in quel testo sì. su pena e struttura sociale. Grazie. Altri chiarimenti su questo, Krüger? Hai parlato sul trattamento trattamento particolare dei funzionari nell'ambito. Potresti dire ancora qualcosa un po' più precisamente, magari su questa stessa particolarmente, e magari anche confrontare con le regole previste dal codice austriaco. Solo una visione superficiale, magari. Ma sul codice austriaco non ho approfondito molto bene. Questo paragrafo invece, questo capitolo relativo ai funzionari dello Stato è molto dettagliato. Ci sono regole generali per tutti i funzionari e poi regole specifiche per particolari categorie, per esempio un lungo paragrafo sui diciamo i funzionari della giustizia, poi i Finanzbeamten e poi i Polizeibeamten, quindi ci sono anche varie specificazioni a seconda dei particolari rami dell'amministrazione. Ma per quanto riguarda il codice di Giuseppe II non te lo saprei dire. Un'altra sensazione mi interessava a proposito di soggettività della pena. Hai parlato di pene pecuniarie per i ceti alti, pene detentive per i ceti inferiori. Mi interessava sapere, grosso modo, che fascia di reati copriva questo sistema, cioè in quale fascia di reati era possibile questo gioco, questo scambio in sostanza, e grosso modo fin quando dura. Questa possibilità del giudice di adattare la pena e quindi di arbitrare in qualche modo la pena dura per tutto il Formers fino al codice fino al 48, sì. E i reati che così insomma ma sono i reati da questo gioco quali sono? Più o meno tutti. O quelli che ne sono esclusi, se non altro, non lo so, per esempio cose come insomma, reati che prevedono la pena di morte, nel morto ovviamente no, ma insomma. Ma direi più o meno non c'è no, non insomma dell'idea di reato per cui alcuni reati siano così talmente infamanti o comunque talmente inammissibili da non prevedere la pecuniarità della pena, non ho idea. Ma la maggior parte, penso se posso, sì, cioè sì. La maggior parte dei. Tu già è già cosa di discussione, non puoi più. Bon, ne parliamo dopo. Ancora precisazioni molto... Niente, adesso io farei un grazie. Adesso io farei, non so, però dipende da voi, proporrei adesso una pausa, per esempio, di un caffè, un quarto d'ora. E dopo discussione, direi su queste, però.